come tutte cose, perché tutte cose quello che si fa, si fa ogni cosa per campare la ricerca spasmodica della felicità. Mia sa quello che ci sta a capocca è sempre stata solo miseria, pure quando pare nobiltà. Fracascio, scendiamo ogni mattina, ma vorrei con mamma fa, dalla dose alle rose, alla forza lavoro disponibile, ogni abuso, venirmi tutte cose, te le ha sulla catà. Ma quale legalità, legalità, ma quale libertà, ma quale dignità, che non è stata mai questione quello che si fa che non si fa. Ma come cazzo si fa, ritagliano anche le felicità, mezza sta miseria, ed è questa che la caccia mi imparà all'università. University of Secondigliano, dallo Zenzu fino al quarto giano, o tenimmi scritta in faccia dove studiamo. University of Secondigliano, University of Secondigliano, cucore in canna, cucore in mana, o tenimmi scritta in faccia quello che siamo. University of Secondigliano. Tre, due, ste, para chiaro. Tavola apparecchiata, riavola guardia e ladra. Astuta e criminale, vestuta a carnaval. Ravitolo palo, pariente, serpiente, cumara. Anatura, voluta, fumastiera. Staratore, oscure, chi ne sentiera. Na caruta, buona, copia. Studia all'università, petra sin da sa città. A prima cosa è superare l'esam, fa l'om. Ruini se viti a pice, fa l'om, ma senza fa nom. Fratelli a terra mille, capito no. A Luca na capo, me na guerra con Massai con. Siento funk, 99 posse Clementine. Saio sangue ogni mattin, fake bambino, vampir. Non muna chi ne pazze, lega chiese che c'è chi. Tante so cazze chi sta chiuse lì dei palazzini. University of Secondigliano, dallo Zenzu fino al quarto giaro. Ottenimmi scritto in faccia dove studiamo. University of Secondigliano, University of Secondigliano, cocore in canna, cocore in mana. Ottenimmi scritto in faccia quello che siamo. University of Secondigliano. Quando siamo noi che casa che stiamo, non ce ne amo che resistimi. Siamo sempre noi che siamo quello che siamo, noi che caiamo anime, pure si ce ne amo. Ci portiamo sempre scritto in faccia rove, nimmo quello che siamo. Siamo sempre noi che troppo buona per sapimmo, non va crarimmo, noi ci arrangiamo, sopravvivimmo. Facimmo ricimmo, terra ci apparamma, lo amma mettimmo, spostammo, e poi ti sbagliamo, ogni sbaglio che facimmo. Ma sembra noi che rappresentammi. Cocore in canna, cocore in mano, noi balliciamo, balliciamo cocore. Camera da capo, microfono in mano, noi rappresentammi ancora. University of Secondigliano, dallo Zenzu fino al quarto giaro. Ottenimmo scritto in faccia dove studiamo. University of Secondigliano, University of Secondigliano, cocore in canna, cocore in mano. Ottenimmo scritto in faccia quello che Secondigliano, oh, bella Rewagli, University of Secondigliano, Clementini, University of Secondigliano, fratelli, fratellina, Napoli, University of Secondigliano, fratelli, fratellina, University of Secondigliano.